se, visto che sabato 2 giugno è la festa della Repubblica e voi volete ovviamente festeggiarla, non volete essere qui, ci rivedremo per chiudere lunedì 4, sempre qui. Quindi la prima sessione dell'esame la faremo lunedì 11. Sempre che ce lo concedano, e se non ce lo concedono lo faremo in un prato, perché io ho solo lunedì 11 libero. Democraticamente lo faremo lunedì 11 e la seconda sessione la faremo lunedì 25. Quindi due lunedì a distanza di 15 giorni. Direi che l'11. Se voi riuscite a dividervi un po', mi fate un favore. So di chiedervi una cosa non facile, però non venite tutti l'11 o tutti il 25. Fatevi, visto che siete collegati via mail, fatevi una, mettetevi una mano sulla coscienza e cercate di essere, non dico 50-50, ma almeno 60-40 o al massimo 70-30, non siate 90-10. Ok? Domande su questo? Alla fine con il 4 giugno noi avremmo fatto 27 ore frontali invece di 30, ma calcolando quello che non state lavorando al blog, almeno 3 ore le consideriamo di laboratorio. Siamo molti di più. Avete messo 5 minuti a aprirlo, poi non c'avete più. Mi mancano 2 ore e 55. Tranne lodevoli eccezioni. Ci sono sempre. I nomi. Madalotti, Benivegna, Caro, Dalla Costa, Di Pietro, Fiorini, Cardani, Grasso, Graziosi, Gregori, Tentini, Lozzano, Luiselli, Malozzo, Marzulli, Misogano, non c'è? No. Notari, sì. Poggiano, sì. Palotta, sì. Papa, sì. Politi, Salullo, sì. Tagliati, sì. Belli, sì. Viviani, sì. Zanardo, sì. Spagnoli, Terenziani, Sicilia, sì. Ferri, Rinaldi, sì. Dalò, sì. Leoncini, sì. Rabia, Gallifuoco. E ci siete in molti. Oggi vi chiedo una cosa diversa, non abbiamo tempo di vedere il blog, li vedremo il 28, così avete tempo di lavorarci un po', perché ieri sera ci ho guardato, non è che vi siate sprecati. Però vi raccomando, perché io prendo nota di quello che fate durante il corso, non solo di quello che farete all'esame. Oggi abbiamo poco tempo e parliamo di una cosa, diciamo, che mi riguarda un po' più da vicino, che è il portale del governo. Oggi pomeriggio noi apriamo il portale nuovo del governo italiano. Quindi quello che vediamo fino alle 4 di oggi pomeriggio è la vecchia versione, la versione che noi, arrivando al governo, abbiamo ereditato e abbiamo iniziato a lavorare. Vi è utile avere questo genere, diciamo, di insider trading, cioè di sapere che cambia una cosa oggi pomeriggio, per capire come voi potete come voi potete studiare il cambio di prodotto, diciamo così, tenendo, usando come parola prodotto qualcosa di sbagliato, perché stiamo parlando di comunicazione istituzionale. Però io adesso vi lascio 5 minuti per navigarci. Voi navigateci un po' su governo.it e poi vi faccio delle domande. Ci avete un po' navigato dentro? Allora, questo memorizzatelo bene, perché anche da un punto di vista di costruzione delle cose, perché appunto da oggi pomeriggio cambierà. Non cambierà in quanto a costruzione di content manager, cioè il content manager è il back office del sito, che continuerà ad essere costruito nello stesso modo, quello lo modificheremo successivamente. Cambierà per una serie di cose che vedrete, che potrete comunque navigare. Io non vi dico quali sono, ovviamente. Sarete poi voi, ne parleremo poi sabato di questo. Mi direte voi che cosa è cambiato e come è cambiato. Ovviamente mi direte che è cambiato in meglio per il vostro bene, ma al di là di questo, troverete delle profonde differenze da questo punto di vista. Adesso io vi racconto come ci si lavora, o come ci lavora le persone che ai loro devono farlo e che devono costruire ogni giorno un rapporto con la pubblica opinione. Allora, quando ci si trova di fronte, io faccio l'esempio del governo ma potrei fare quello della Camera o del Senato, mi faccio quello del governo esclusivamente perché essendo quello che dirigo io mi è più facile raccontarvi le cose. La scelta di raccontare quello che accade non è legata a delle volontà, è legata a degli obblighi nella comunicazione istituzionale che sono ovviamente subiscono la cadenza, diciamo, dell'agenda di un'istituzione, in questo caso del governo. Innanzitutto, nel caso specifico di questa istituzione, il governo è la somma dei ministeri e quindi dei ministri e quindi del Consiglio dei Ministri, che a loro volta sono diciamo così guidati, coordinati dalla Presidenza del Consiglio. Non vi faccio una lezione di diritto pubblico, non ne avete bisogno di diritto costituzionale, sapete com'è l'albero istituzionale a questo punto di vista. Tutto questo va tradotto in un linguaggio, che deve essere quotidiano, però che non deve dimenticare anche il racconto di alcune regole fisse. Per quello nella colonna di sinistra, che è, diciamo, la colonna che ci si trascina sempre dietro, poi nella navigazione interna, tradizionalmente la colonna di sinistra è quella che, diciamo, è un po' la corporate identity del sito, del portale. La colonna di destra è la colonna di fruibilità interattiva, la colonna centrale è quella delle notizie o delle vendite di prodotto, se consideriamo la collocazione classica delle tre colonne. Ad esempio, oggi vedendo il nuovo sito vedrete che le tre colonne ci sono, ma in modo diverso rispetto a quelle che vedete adesso. Però tradizionalmente si fa così, e quindi dove c'è la colonna, vabbè, partendo dall'inizio, chiaramente ci sono i riferimenti biografici del Presidente e dei Vicepresidenti, ma poi abbiamo due realtà che sono la Presidenza del Consiglio, dove viene raccontato tutto quello che è, diciamo, Palazzo Chigi, cioè la sede della Presidenza del Consiglio, quindi gli uffici di partito, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, vedete che la colonna si trascina con noi. Noi da qui possiamo vedere, cliccando sul governo, non soltanto diciamo delle notizie che sono i ministri e i ministeri, ma vedere anche una storia del governo, un riferimento di archivio a quelli che sono successo, a quello che è successo fino ad oggi. Quindi ci troviamo di fronte a una rappresentazione statica più che dinamica. Raccontiamo quello che è passato e quello che è, raccontiamo quello che si fa. Questo succede in qualsiasi istituzione in modo più o meno, diciamo, normale. Ripetuto, se noi andiamo a cliccare sulle istituzioni, no, non qua, parliamo di istituzioni. Se noi andiamo a prendetelo da caso, cosa vogliamo aprire? Camera. Vogliamo aprire la camera, anche se è costruito in modo diverso l'home page, perché è molto più orizzontale. Vedete che c'è più o meno la stessa cosa, a parte Bertinotti che ha messo questa parte centrale, le notizie le ha messe sotto l'istituzionale, però uno è diciamo normativo, l'altro è culturale e in centro ci sono le notizie. Non cambia di molto la costruzione delle cose. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo capito che abbiamo una sorta di guida, appunto, come ho detto, statica, ma anche di guida istituzionale. Dopodiché ci sono, e questa è una delle confusioni che aveva e che ha questo sito, questo portale, una serie di icone che sono obbligatoriamente, come già vi ho detto, molto molto banali, proprio per le ragioni legate alla legge sull'accessibilità. Non possono essere animate, non possono essere di colori duplici, non possono essere, ci sono tutta una serie di vincoli normativi per cui devono essere così brutte, diciamo, ma non ci sono grandi possibilità. Quindi oggi vedrete come abbiamo, diciamo, superato, provato a superare questo problema. Vedete, ci sono delle cose che sono informative più che altro, tipo il discorso sui bandi di gara, sulle direttive della Presidenza del Consiglio, che sono anche questi atti di trasparenza amministrativa, non hanno alcun valore. Se noi andiamo a vedere poi le statistiche del sito giornaliere, quando vengono a cercare di, quando cerchiamo di capire quali sono le pagine più viste, io vedo le statistiche del sito, sicuramente ci sono delle parti di questo portale che non vengono nemmeno visitate, però è evidente, ci devono essere a norma di legge, quindi come. Dall'altra parte la scelta è quella di raccontare, di scegliere una notizia senza che questa notizia sia un'ultima ora, una notizia che deve rappresentare il momento più importante, diciamo, dell'attività di governo, quindi in questo caso l'ultimo Consiglio dei Ministri, che è quello di giovedì scorso. Dopodiché ci sono le notizie che rappresentano, che vengono dalla Presidenza del Consiglio. Vedete che infatti la prima notizia è quella che riguarda l'inaugurazione, diciamo così, l'apertura di oggi del nuovo portale, e poi le notizie dei ministeri e la newsletter. La newsletter è una pubblicazione che viene inviata ogni martedì a un indirizzario di persone che si iscrivono a questo documento che viene mandato via mail, ovviamente, come tutte le newsletter, è ovviamente gratuito, anche perché se lo facessimo pagare non si iscriverebbe nessuno, presumo. Però sono iscritte 120.000 persone, che non sono poche, non sono persone, tutte singole persone, sono associazioni, sono enti, sono più svariati personaggi, però ci sono 120.000 indirizzi che ricevono ogni martedì, ogni notte, tra lunedì e martedì, questa newsletter, che racchiude un po' la settimana che si è trascorsa. Vengono fatti, diciamo, dei dossier. Se noi ne apriamo uno per, non lo so, la relazione sulla situazione economica del paese, e poi andiamo al dossier sulla relazione sulla situazione economica del paese, c'è tutto un lavoro che poi è il MEF, il sito della, del Ministero dell'Economia, è raggiungibile ovviamente da qui, perché poi ogni sito, questo è uno dei lavori che noi ci apprestiamo a fare, ogni sito è totalmente incoerente da un punto di vista da un punto di vista grafico, da un punto di vista anche di usabilità, che vedete qua è totalmente, a parte che è totalmente incomprensibile, ma questo potrebbe spiegare molto sulla situazione economica italiana, è soltanto un caso, però è davvero molto complicato da vedere da questo punto di vista. E così poi per i vari siti dei vari ministeri, manca una coerenza. Ad esempio oggi due siti, che sono quello del Ministero del Programma e del Ministero della, dell'Innovazione e della Funzione Pubblica, anche loro cambieranno e cambieranno cambieranno come quello, diciamo, madre del, del governo. E poi ci sarà il problema di trovare una coerenza grafica agli altri. Adesso poi faremo un rapido giro, troveremo che sono tutti profondamente diversi tra di loro. Questo, vi dicevo, è un dossier tra i tanti, qualsiasi cosa noi lo andiamo a cliccare, una persona riceve ogni giorno, ogni settimana, 6 notizie di questo. Uno può interessare o non interessare, però uno che può studiare questi temi si ritrova una serie di materiali, di dati e di notizie che possono essere utili. Comunque, tornando invece al discorso grafico che vi dicevo, se noi andiamo a vedere i siti dei vari ministeri, sono tutti uno diverso dall'altro, e questa è una cosa sulla quale bisogna lavorare. Questo ad esempio è il sito del Ministero degli Affari Regionali, che decide di portare sulla destra l'icona della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi il discorso delle tre colonne poi è quasi sempre similare, però vedete com'è. Se noi andiamo, vai, lasciamo perdere la tutela del programma innovazione, che non hanno adesso ancora il sito, vorrebbero avere, le pari opportunità è ancora diverso, però vedete che più o meno la divisione in tre parti c'è. Invece vabbè, il rapporto del Parlamento non ha sito, praticamente usa le pagine nostre, le politiche comunitarie ha un altro sito diverso, si è fatto un suo logo, giudicate voi. Poi questo addirittura è tutto meno che un sito governativo, però hanno deciso di farlo così per ora, che è il sito delle politiche giovanili e dello sport. Si fa fatica a capire che è un sito istituzionale, è stata una scelta, perché la scelta è stata quella di dire: se noi facciamo un sito istituzionale i giovani non ci vengono a visitare, non ci vengono a navigare, ed è un profondo errore, perché non è la grafica che ti convince a navigare o meno, ti convince a navigare il contenuto, e qui il contenuto è difficile da trovare, perché si è scelto di ragionare non per colonne, ma si è scelto di ragionare per icone, diciamo, e devo dire che si fa un po' fatica. Voi lo trovate, come lo trovate? Mi piace ditelo, non è che... No, anche graficamente non è... Come dice Stanè? Non è... Sembra né carne né pesce. È confuso. Poi invece ci sono ovviamente dei... Quando andiamo ai ministeri chiamati col portafoglio, cioè ministeri che hanno autonomia finanziaria vera, quindi possono fare le cose per i fatti loro, ci sono dei mondi molto più ampi. Ad esempio questo è il Ministero degli Affari Esteri, è pieno di roba, però vedete poi si fa fatica a trovarla, perché cioè si fa fatica a trovarla, bisogna andarla a cercare. Quello dell'interno è molto istituzionale, invece è molto serio, però anche qui, cioè, ti scrivi da non gadget, non mangiare. E ancora più non sei mangiato. Come dire, per questo non si può tornare al governo, non si capisce perché, ma comunque torniamo da qui. Né una mastella. Non brutto, sì. Allora, poi abbiamo la giustizia, che è molto difficile da trovare, però se riusciamo ad avere tre foto del ministro. 3, 8. 4. Uno è in dolce compagnia. E poi abbiamo il tesoro, l'abbiamo visto, lo sviluppo economico è questo qui, ma è molto. Assomiglia abbastanza a quello dell'interno. La cosa brutta, come vedete, è che non esiste una coerenza. Ogni tanto ci piazzano in mezzo le 12 stelle europee, una bandiera italiana viene stilizzata in mille modi diversi. Questo è il Ministero dell'Università, che vi dovrebbe riguardare di più. Questa è la sede del Ministero dell'Università, che voi conoscerete. E vedete, questo è la pubblica istruzione invece, dove c'è un fiorone sognante. E anche qui la scelta è quella di mettere l'icona sulla destra, di non usare la bandiera italiana, di mettere dei ragazzi e scegliere dei colori. Anche qui in modo abbastanza personale. Tra l'altro noto che non c'è rimando al portale del governo, questo non è bello per loro. Poi c'è il Ministero del Commercio Internazionale che è abbastanza così, chiamiamolo di tipo. Sì, la cosa più divertente, questa è una cosa che mi è già stata fatta notare, che dovremmo poi andare a vedere. Questo è il sito del Ministero del Commercio Internazionale ed è in italiano. È un modo per non riuscire mai a vendere qualcosa all'estero. È assolutamente questo. Non c'è la versione inglese. Questo è il Ministero del Lavoro. Come vedete non esiste una coerenza, per dirvi come poi il lavoro sia difficile da fare, questo lavoro che ci apprestiamo a fare adesso, di cercare di dare una coerenza. Questo è il Ministero della Solidarietà Sociale, questo. Poi non esiste un colore, la difesa è più istituzionale di tutti. Però almeno è chiaro. Poi da un certo punto di vista di costruzione è quello che ricorda di più quelli proprio davvero di un'istituzione. Poi vabbè, ci possiamo andare anche a divertire, questo è quello delle politiche agricole, molto colorato, però vedete che poi tutti non hanno animazioni proprio per le ragioni che vi dicevo sulla scusate, sulla mi stavo chiamando dall'università. Pronto? No, è tutto aperto, non è informato, forse non riesce ad entrare, non porta l'insieme, dica di bussare con violenza, ok? Andate ad aprire questa povera esclusa che non sappiamo chi sia. Poi andatevi a aprire la porta quando mai arriverà, uno faccia. No, ma la porta quella là. La porta. Non è difficile. Questo è il Ministero dell'Ambiente, che appunto anche questo ha una sua linea, una sua scelta. E poi abbiamo il meglio, che è il Ministero delle Infrastrutture. Forse perché sono in basso tutto il colore. Però perché di pietra ha il colore. È un sito originale, diciamo, questo è un sito originale. Guarda se le lettere così. Forse riesce soltanto a battere quello del. Quella roba di un e messa lei in aperta? Hai aperto la porta? Sì. Ma sarà una frase in qualche lingua di tutela della salute. E infine abbiamo finito, no, abbiamo la salute, anche qui c'è una scelta diversa, le 12 stelle sono solo 6, la scritta così. I temi culturali, che invece è un bel sito. Oh, wow, che è molto serio. Che film ha fatto di Bacan? E poi il sito di comunicazione che è abbastanza. Che film ha fatto di Bacan? Tra l'altro ha un paio di cose di legge, appunto questo che si muove, non si può muovere. E la nave che si muove poi. La nave di Marconi. Comunque, queste sono le piccole cose. Vi ho fatto fare questo breve giro in queste fondamentali siti per spiegarvi come tutto, come questo portale poi alla fine deve racchiudere eccole qua belle, non è solo dove va, adesso proseguo nella mela, chiudo anche qui e ora? Bravo. ma è vero che mi giri a perché non lo so dire si va a vedere bella ma non è proprio allora cosa, come vi dicevo non è andato bene il ragionamento è così fatto questo chiamiamolo portale inteso come sito madre come coordinamento di quello che poi avviene deve cercare di raccontare un po' tutto quello che abbiamo visto nei vari mondi, non solo quello che abbiamo visto nei vari mondi informatici, ma anche quello che in un certo senso deve essere fa parte delle novità del giorno, che poi possono essere incontri, interviste, appuntamenti, eventi, cose che accadono e quindi cose che vanno commentate o meno. Quindi tutto teoricamente deve poi uguale, dei servizi collettivi che possono fare per la gita col prete quindi cioè vi detto che dovete uscire se siete oggi in un caso che dice che abbiamo il diritto a avere il trasporto sti cazzi non ci sono da nulla cosa succede quindi? Noi abbiamo in una giornata dobbiamo raccontare sì quello che avviene, una volta che abbiamo scelto comunque un tema, in questo caso probabilmente la Consiglio dei Ministri, perché c'era la conferenza stampa del Presidente che ha raccontato l'anno di governo e poi qua è. Si può vedere, poi ci sono 100 dossier che racconteranno il governo con tutti i vari le varie parti che poi si possono osservare. Poi c'è la parte invece più istituzionale. Questo testo non è un testo che viene scritto in modo giornalistico, è un testo amministrativo, quindi è un testo burocratico. È un testo che va inserito esattamente così come poi viene trasmesso alle Camere per i provvedimenti o al Presidente della Repubblica per la firma dei decreti, eccetera, e anche viene comunque proposto ai mezzi di comunicazione. E poi lo sintetizzano in modo assolutamente diverso, perché poi vedete non è breve, in questo caso poi si era trattato di un Consiglio dei Ministri abbastanza breve, però sono tutta una serie di notizie che poi non trovano per buona parte nemmeno spazio sui giornali. Il Consiglio dei Ministri l'ultima settimana, quella parte il bilancio di un anno di governo, si è parlato soltanto dei disegni di legge sulle comunicazioni, non è che ci sia stato altre notizie sulla pace, però l'accordo di cooperazione culturale fra l'Italia e l'India è una cosa di cui nessuno sa nulla, ma che potrebbe essere più o meno interessante, che poi potremo cercare di scoprire per saperne di più, eccetera, eccetera. E poi ci sono accordi di cooperazione sulla navigazione satellitare civile fra l'Unione Europea e la Corea. Sono temi che non troveranno mai spazio sui giornali, ovviamente. Però hanno un appunto c'è un dovere comunicativo che è quello di raccontare tutto e in questo caso deve essere fatto in modo burocratico. Invece poi c'è il discorso delle notizie, le notizie che riguardano, come vi ho detto, il Presidente del Consiglio e e quello che riguarda poi i tavoli, le altre attività che si svolgono a Palazzo Chigi, ad esempio, non è soltanto il fatto che Prodi vada in giro per il mondo, mandi telegrammi, ma anche il fatto che a Palazzo Chigi si svolga, ad esempio stamattina, la firma di un accordo per trovare il patrimonio bibliografico della comunità ebraica che era stato portato, era stato disperso, comunque se non distrutto del tutto, appunto non ritrovato dopo il sacco del ghetto di Roma. E quindi questa è una iniziativa culturale, chiamiamola così, o comunque un'iniziativa istituzionale che deve trovare un suo spazio nelle notizie a basso titolo. Viceversa, ci possono essere nelle notizie dei ministeri, come avete visto, noi abbiamo a disposizione 25 siti di 25 ministeri e 25 ministri, di 170 sottosegretari, secondo me. Ragionamenti sulle tante cariche che ci sono istituzionali, bisogna selezionare durante la giornata alcune notizie. In questo caso si è scelto il tema della famiglia, e questo poi l'istituzione diventa anche comunicazione politica, perché in questo momento il tema della famiglia è un tema caldo, e quindi c'era interesse a sottolineare l'impegno del governo sul tema della famiglia. Poi la notizia di comunicazione, la politica agricola, una del Ministero dell'Interno, una del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cosa significa questo? Significa che questa parte centrale, cioè quella delle notizie, è quella che teoricamente dovrebbe interessare i mezzi di comunicazione, che però, attenzione, ricevono queste notizie esattamente nel tempo reale in cui vengono inserite sul sito, quindi a loro volta il sistema delle agenzie lo trasmette. Vi ricordavate cosa avevamo detto l'altra volta con Gheddafi, no? Che poi si è scoperto essere in piena salute alla faccia della DN Kronos, che aveva praticamente già messo nella bara. Il ragionamento è che le agenzie non hanno soltanto le breaking news che sparano, ma hanno anche una serie di comunicazioni che ricevono, quindi diventano fonte indiretta a loro volta, non fonte diretta, e un'istituzione, in questo caso il governo, gli dice: ci sarà il disco presente i dati sulla trasparenza fiscale, il comunicato viene dato alle agenzie e viene messo sul sito del governo, in questo caso poi sul sito del Ministero dell'Economia. La differenza qual è? Che le agenzie possono aggiungere una serie di interpretazioni giornalistiche, cosa che l'istituzione non può fare, non deve fare, non solo non può fare. Il vantaggio per le agenzie è quello poi di, appunto, gestire questa informazione e mandarla in rete, o mandarla ai propri abbonati, ai propri utenti, o metterla sui propri siti in un certo modo, verificandone o meno il valore, dando degli annunci, dei flash di agenzia, le famose, quelle che sono appunto le breaking news, le stelline o i flash, come si chiamano, quelli che vengono messi soltanto con la riga di titolo, non con il date attaccato nelle 10 righe. Per quello che riguarda un sito istituzionale si pubblica tutto, si pubblica quando si ha notizia, non si mette in parte e basta un flash, una breaking news, si mette l'intero documento. Questo porta a essere più lenti alla fine, non perché più che più lenti, diciamo meglio meno attrattivi, nel senso che l'agenzia ti dà subito il titolo, ti dà la notizia, notizia disco presente dati sulla trasparenza, la TDA sono stati trovati 12.000 evasori totali, che è la notizia che può interessare, notizia che si trova lo stesso dentro questo documento, ma che non deve essere trattato come comunicazione giornalistica. Il vantaggio però di un sito istituzionale, per chi fa, diciamo così, per chi studia questi dati, per chi è curioso, per un semplice cittadino che vuole saperlo, sa che questa è una fonte primaria, a differenza di quello che in questo caso diventa l'agenzia di stampa. L'agenzia di stampa non è più fonte diretta, è fonte indiretta, perché riceve del materiale o lo decide di mandare fuori esattamente così com'è, ma non lo fa perché diventa una cosa troppo corposa, troppo lunga, troppo poco interessante, troppo poco mediatica, e quindi automaticamente, anche semplicemente cambiando teoricamente una sola virgola, lo manipola, senso positivo dico questo, lo manipola, ma diventa quindi fonte indiretta, non più fonte internet. questo poi è il ragionamento che, al quale volevo tendere. Da questo punto di vista, per quello che riguarda i siti istituzionali, diventa l'unica vera fonte diretta nei confronti della pubblica opinione, o nei confronti dell'utente, o nei confronti del cliente, o nei confronti del socio, chiamatelo come volete a seconda della forma che ha la persona che si relaziona con esso. Il ragionamento è così fatto che quando l'utente medio di internet imparerà a usare bene le informazioni che corrono in rete, cosa che ancora è molto vaga, e soprattutto chi mette informazioni in rete le inizierà a mettere in modo armonico e in modo utile, e non soltanto in modo burocratico, perché il modo burocratico comunque va rispettato, riesce ad accompagnare al modo burocratico un abstract o una sintesi o comunque una sua chiave di lettura più semplice, allora ci sarà un grosso problema per le stesse agenzie di stampa, perché a quel punto si ritroveranno tra l'incudine e il martello, tra l'incudine della fonte primaria e il martello dei siti giornalistici veri, dei giornali online, che hanno invece la possibilità di mettere commenti, di mettere fotografie, filmati, retroscena, eccetera. A quel punto l'agenzia, che si è sempre posta come il diaframma tra la notizia e la sua interpretazione, dovrà decidere se diventare notizia o interpretazione, tant'è vero che molte agenzie di stampa si stanno già specializzando, diciamo così, in articoli o in servizi che raccontano dietro le quinte delle cose, perché altrimenti per raccontare determinate cose le istituzioni fanno da sole, dialogano direttamente, mettono in rete una serie di informazioni che i giornali pescano già e che l'utente pesca già direttamente. Perché se adesso, appunto, come dicevo, siccome cambieranno anche alcune cose proprio di fruibilità di questo portale, che vale per tutti gli altri che avete visto, e per la mole di informazioni che potete trovare, se pensate ai 25, soltanto ai 25 ministeri, ma poi ci sono le società partecipate, poi ci sono le altre istituzioni collegate, è soltanto da perderci delle ore dentro e si trovano molte cose. Se io devo trovare dei bandi di concorso o qualcosa del genere, con la ricerca per parole chiave faccio molto prima che andare in edicola a comprarmi il giornale che mi spieghi dove posso io fare quel concorso, e lo posso fare anche più comodamente e magari già subito trovare online il modulo per poter tentare quel concorso. Quindi da questo punto di vista l'utente rischia di essere l'utente a uccidere una parte dei media tradizionali, proprio perché vengono messe in rete tante informazioni. Quando poi queste informazioni verranno ulteriormente raffinate dalle istituzioni stesse, che dovranno sempre però stare molto attente a non portare troppa enfasi giornalistica, anzi portarne il meno possibile se non niente, a portare il minimo di sintesi, di comprensibilità per l'utente, allora a quel punto davvero per le agenzie si porrà un problema. Tant'è vero che, faccio l'esempio qua del portale del governo, io sto proprio creando una relazione giornalistica per fare le cose, non è più soltanto un nucleo di funzionari amministrativi che inseriscono materiali, ma porto dentro persone che abbiano una sensibilità giornalistica, vincolate ovviamente a fare questo secondo le regole del gioco, a non poter cambiare una parola di un documento perché è brutto o perché non si usa più, perché quello è il documento che è stato siglato e quindi non può essere cambiato, quindi bisogna sempre stare molto attenti anche da questo punto di vista. Ok? Avete domande a proposito? Vi è tutto chiaro? Invece volevo sapere perché forse una sarà una domanda scontata, perché il governo nel sito non utilizza pubblicità? Cioè, perché non ci sono pubblicità rispetto agli altri siti? Poi può essere che magari la risposta sarà ovvia. Perché non è... il servizio pubblico teoricamente non dovrebbe avere pubblicità. Poi tu mi dici la RAI ha pubblicità, però un'istituzione che dovesse avere la pubblicità oggi, avesse avuto la settimana scorsa la pubblicità di Unicredit, oggi che Unicredit e Capitalia si sono chiuse si vedrebbe un conflitto di interessi. Sì. Quindi sì, infatti pensavo era semplicemente una questione di... Se i siti istituzionali vengono a commentare anche la notizia, non si scade nella, non si rischia di scadere nella propaganda più propaganda, nel senso più negativo sì, del termine. Assolutamente sì, tant'è vero che. Ah, quindi è una cosa cosciente. Ok, perfetto, grazie. Non finché si tratta, per dire, prendiamo il caso del telegramma a Merkel dell'altro giorno per. Sì. In questo caso tu puoi dire la tragica uccisione. Assistenza alle popolazioni martoriate, vili attentati, qua tu puoi mettere aggettivi a una cosa perché talmente non ci può essere dubbio che ci sia condivisione dell'intera comunità civile e dell'intera comunità politica, non troverai mai, a parte qualche sciagurato che possa dire come si permette Prodi di dire che sono vili attentati quando sono stati fatti molto bene perché hanno permesso l'uccisione di 3 soldati. Difficilmente in un sistema democratico troveremo qualcuno che dica qualcosa del genere. Quindi viene considerato la possibilità di. Ma se io scrivo che partecipa alla conferenza della Banca Mondiale, non posso scrivere al Presidente del Consiglio in splendida forma andrà a inaugurare la cosa, questa meravigliosa iniziativa. Non ci sarà un aggettivo. E non c'è un aggettivo. È vero che è banale scrivere in questo modo, ma è l'essenzialità che ti mette al riparo da, non solo da qualsiasi critica, ma è comunicazione istituzionale. Nessuno avrebbe detto nulla se noi avessimo scritto partecipo oggi a Roma alla cerimonia inaugurale della interessante conferenza, nessuno, né di destra né di sinistra né di una associazione concorrente a questa, ma non sarebbe stato corretto. Cioè, anche l'aggettivo interessante conferenza che sarebbe passato totalmente in nessuno se ne sarebbe accorto, comunque non è passava dalla comunicazione istituzionale a comunque un giudizio di merito sulla cosa. Questo non può essere fatto, non deve essere fatto, è una semplice regola di stile. Così come se andiamo da altre parti, da questo punto di vista, no, anche tornando su quello che sul telegramma alla Merkel, sì. Cioè, si può anche comunque dissentire con l'utilizzo di certi termini, perché comunque anche il termine stato terroristico ha una sua natura storico-politica, di conseguenza. Però quella è una, quella però è una di, quello è il testo di un telegramma che resta, che è stato inviato, poi lì si discute sul fatto, ma che quello è un documento. Ah beh, sì, non è un'interpretazione lì. Ad esempio qua sul fatto sulla sicurezza si sarebbe potuto scrivere qualsiasi cosa, no? Sulla sicurezza. Contro la criminalità, contro. Non c'è un aggettivo. Questo l'ha fatto il Ministero dell'Interno, non è che ha fatto Palazzo Chigi, quindi è semplicemente un'informazione. Ora, da questo punto di vista, vederlo scritto qui o vederlo scritto su un'agenzia di stampa non cambia niente, non cambia niente, soltanto che i giornali sono portati a leggerlo più facilmente dalle agenzie di stampa perché sono abbonati a quelle e il cittadino non sa che le trova anche qui, perché le 200.000 visite giornaliere che abbiamo noi non sono certo quelle del 1.5 milioni, dei 2 milioni che ha Repubblica, ma per una cosa logica, perché Repubblica porta una serie di animazioni, foto, filmati, eccetera, che ovviamente rendono generalista la cosa. Questo è un generalismo, ma che comunque è limitato a un'istituzione. Non è attrattivo, ma non deve essere attrattivo, non deve fare concorrenza repubblica, deve semplicemente fornire una serie di elementi. Questo che è un comunicato algido, un comunicato che non dà alcuna emozione, però dà le notizie, dice che cosa accade, dove accade, chi sarà presente, cosa succederà, e dà delle informazioni anche ai mezzi di comunicazione per dire, dopo la stipula dell'accordo, il sindaco e il ministro incontreranno la stampa. Perché questo? Perché ci si rende conto che questo non è sufficiente. Lì diventa poi la propaganda. La propaganda ce l'hai nel momento in cui le istituzioni nazionali e locali incontrano i media. E da questo punto di vista poi lì ci sarà la possibilità di dire cose in un senso o nell'altro, rispondere alle domande in un senso o nell'altro. Quindi è quello che porta poi la possibile interpretazione delle notizie. Lo scopo di un sito, di un portale istituzionale è semplicemente quello di fotografare quello che accade in modo il più possibile asettico e di fornire il massimo numero di informazioni. Qua noi, se noi andassimo a, non lo so, se facessimo un percorso particolare, tipo, qua ci sono tutte le fonti normative sulla presidenza che non possono interessare a nessuno, teoricamente, ma che ci devono essere, perché una volta che tu devi cercare un documento ci deve essere, cioè noi alla fine questo portale ha circa 40.000 pagine, delle 40.000 pagine, ora mi sembra più o meno 38, di queste 38-40.000 pagine ne vengono visitate bene, ne verranno visitate 100, 200, però ci devono essere tutte le altre, perché devono esserci tutte le informazioni che riguardano, cioè la semplificazione amministrativa, adesso non so nemmeno dove sia. È una cosa totalmente... Vedete che è abbastanza veloce il... Se io vado... Ho cliccato un a caso, questo è un documento, non so nemmeno cosa sia, una seduta sulla conferenza Stato-Regioni per la semplificazione amministrativa in agricoltura, chiaro che più fai la ricerca mirata, eccetera. Ci deve essere questo. Nessun portale di informazione ti darà mai questo genere di... Se noi andiamo al sito di Repubblica e cerchiamo semplificazione amministrativa nella ricerca sul sito, non troveremo niente, comunque troveremo un item invece di 200.000. Forse si apriva. No. Comunque, tanto che si apre, per spiegarvi quindi come la poca immediatezza di questo portale è dovuta al fatto... 125.524. Ce l'hanno? Sì. Dentro il sito della Repubblica? No, però sono 22. Vabbè. 22 sugli anni. No, però sono articoli, non c'è logicamente, non c'è quel testo. Vedete, qua addirittura hanno fatto l'errore, hanno messo da Leo per creare una di... hanno messo quella cosa lì. Ok, vediamo dove va sito. Non si può cercare sul sito. Comunque. No, si può. Vabbè, adesso. È nella banda in alto, quando chiede di cercare. Se lei clicca su repubblica.it poi c'è con il cagnone. Sì. 22 documenti. Va bene? Per dirvi com'è la differenza, non mi ricordo adesso quanti ne avevamo trovati qua. Una marea. Fossero un po' di più, come è giusto che sia, è un sito amministrativo in un certo senso. Quindi. 531, è un termine abbastanza tecnico, però per dirvi come alla fine ci troviamo di fronte a delle realtà che vanno molto navigate per essere scoperte. Poi è chiaro che tutto diventa il rischio che ci sia la propaganda c'è indubbiamente, perché se vado a cliccare su questa icona in basso a destra, che sono le icone diciamo tematiche del cittadino consumatore, abbiamo dei documenti che da un punto di vista tecnico devono recare testi burocratici, il decreto legge poi convertito in legge, però quando poi vado a raccontarli magari a fare la sintesi dei provvedimenti, anzi meglio ancora se metto il Deplian del cittadino consumatore, è una campagna istituzionale, ma è una campagna che inevitabilmente porta un giudizio, essendo fatta da un governo, perché dice passo dopo passo cresce la tutela, non c'è scritto cittadino consumatore basta, già nella parola cittadino consumatore c'è un'accezione positiva, ma è inevitabile che sia così, però questo non viene visto come una, questo è a riparo da critiche politiche, perché comunque tutto viene portato, è la giustificazione della legge, perché nel testo della legge c'è scritto che questo permetterà di avere maggiori tutele e come tale è stata approvata e quindi essendo diventato testo di legge è una cosa che si può raccontare, bisogna stare veramente molto attenti a come poi le cose si raccontano, non tanto per il problema dell'accusa di propaganda, ma proprio per dare una coerenza alla comunicazione nel suo complesso. Noi qua in basso a sinistra abbiamo lasciato, dove si chiama siti archeologici, abbiamo lasciato i vecchi siti del governo, dei governi precedenti, che erano questo, no? Per quello che riguardava i siti, che so, del, se noi andiamo qua, che era il vecchio sito del governo precedente, assolutamente non è che ci fossero differenze, era esattamente la stessa cosa. Il sito presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente dello Stato di Israele, Moshe Katsav, c'è scritto il brillante presidente del Consiglio. Quindi non è che ci siano differenze dal punto di vista di linguaggio, questo deve rimanere. Non è questione di maggioranze di un senso o dell'altro. Se cambia invece un amministratore delegato di una società o se cambia la logica comunicativa di un'azienda, cambia profondamente anche il modo di raccontare le cose. Ok? Però vedete che era... Qua c'era una dichiarazione, quando dice grandi opere, Berlusconi è un sogno ormai a portata di mano. Non è detto, non è escluso che quando ci abbia fatto qualcosa Prodi per un'iniziativa non ci sia stato comunque un giudizio virgolettato. Non mi sembra di ricordarlo, perché la scelta nostra è di non metterlo. Però anche in questo modo, anche in questo sito, che pure è anche, vedete com'era diverso, qui siamo nel 2002. E nel 2002 già la concezione proprio del istituzionale era proprio profondamente diversa rispetto a quella che viviamo oggi. Ok. Perché non si è pensato di coordinare i siti dei ministeri? Ma per una ragione, adesso cercheremo di farlo, per una ragione molto triste, per il fatto che i ministeri che hanno autonomia finanziaria possono farsi bandi di, possono affidare all'esterno i siti e quindi spendono soldi per farli. Noi semplicemente quello del governo l'abbiamo fatto in casa, diciamo, quindi è costato 0 euro, ma ci sono dei portali, tipo la famosa polemica su italia.it, che è costato la bellezza di 45 milioni di euro, perché è il portale del turismo, ed è criticatissimo proprio per i costi, che ovviamente da 0 a 45 milioni di euro c'è un certo range di spesa, però qua il discorso è che poi da questo si possono creare dei servizi eccetera, difficile comunque giustificare una spesa del genere, però. E lo stesso vale per gli altri siti, il sito del un sito normale viene fatto pagare 200-300 mila euro, 500 mila euro quando lo fanno fare all'esterno, quindi all'esterno poi la grafica non è coerente, adesso si tratterà di ritornare a una grafica coerente lasciando comunque un'autonomia, anche perché ingessarla troppo non avrebbe molto senso, si passerebbe da una comunicazione istituzionale anche a una comunicazione troppo burocratica, quindi non è il massimo. Questo è italia.it. Piccoli scandali italiani. Altre domande? Se no poi dopo vi devo salutare. Gli ospedali hanno lo stesso problema di comunicazione istituzionale? Assolutamente sì. Assolutamente sì, se noi andiamo al Policlinico Gemelli, vediamo se... Vediamo se ha un sito, sì. Ovviamente essendo un sito legato anche alla salute e al fuorilegge da un punto di vista... da un punto di vista di accessibilità, ma questo non fa notizie. Anche qui, nonostante sia una struttura pubblica, non può esserci una pubblicità, deve essere un sito istituzionale. Però non c'è in alto a sinistra l'università dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È dell'Università Cattolica, non può non metterlo. Però non c'è pubblicità, non c'è pubblicità di una casa farmaceutica. Eppure ci potrebbe tranquillamente essere, non ci si stupirebbe, ma sarebbe gravissimo. Non escludiamo che magari in qualche, adesso non abbiamo il tempo, ma potete cercarlo voi, che in qualche ospedale ci sia. L'unica pubblicità istituzionale che c'è è quella che riguarda il 5 per 1000. Questo c'è anche sull'Università di Parma, vale lo stesso discorso, parliamo del discorso della... Se noi andiamo un EDR non c'è pubblicità, sarebbe meglio, almeno toglierebbe un po' di altre cose. Non c'è. Voi potreste offrirvi come grafici per l'università, io non so chi lo faccia, lo fanno all'interno? Se lo sapete? Webmaster sotto. Ah no, c'è Proger, è la società che lo fa, quindi pagano anche per fare questo. Complimenti. Sì, sì. C'è una società che glielo fa. Voi potreste, come voi avete dei rappresentanti degli studenti, no? Per quale motivo non vi proponete di dire per quale motivo non viene fatto dagli studenti in scienza della comunicazione il portale? E quale motivo deve essere fatto? Io per cui il giornalino dell'università è fatto da una fondazione privata. È assurdo. Cinquant'anni in questa università. Cioè, quale modo migliore per mettere alla prova quello che state imparando, quello che state facendo? Non c'è una ragione perché vengano, magari lo fanno per 100 euro, per 1000 euro, ma comunque sono soldi, non sono stati 1000 euro spesi, è la mancata possibilità per voi di farlo. Quindi se avete dei rappresentanti di studenti a tiro, diteglielo. Sì, sono freschi freschi. se sono freschi freschi ancora meglio, dite, è una delle ragioni, una delle proposte che si potrebbe fare in consiglio di amministrazione, senato accademico, non solo come poi siedano loro come organismo, credo in consiglio di amministrazione, è quello di dire gli strumenti comunicativi istituzionali, noi siamo disponibili a collaborare con gli studenti dei vari. Innanzitutto vi fate un'esperienza, lo mettete nel curriculum, vi divertite a fare una cosa nella quale e date un segno anche di risparmio alla vostra istituzione per la quale già pagate abbastanza. Noi ci vediamo sabato allora, io scappo a inaugurare il portale, voi oggi pomeriggio guardatelo, analizzatelo, criticatelo e poi sabato ne parliamo un po' e mi dovrete dire quali sono le differenze, che non sono poche. Okay.